24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 10 secondi inizia la terza parte di 24 mattino di questo giovedì 16 aprile. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e alle ascoltatrici. Come sempre un rapidissimo sguardo a quello che succede fuori dall'Italia. Allora, intanto abbiamo tutti gli stessi problemi. Il Guardian punta il dito oggi col titolo di apertura sulle morti degli anziani in casa, perché anche in Gran Bretagna si sospetta che ci siano molte più vittime del Covid-19 e che siano molto concentrate anche tra gli anziani che per esempio non hanno potuto chiamare un'ambulanza quando sentivano appunto di perdere la possibilità di respirare. E invece, questo per quanto riguarda la Gran Bretagna. Per quanto riguarda il titolo di apertura del Figaro, invece vediamo che questo quotidiano, un po' come fanno molti media in Francia, guarda sempre fuori dai problemi del paese e adesso si interroga globalmente su come cambierà Schengen, come cambieranno i confini, che è un problema che riguarda, è un problema serio, perché evidentemente è la prima volta da quando c'è Schengen che noi non siamo liberi di girare nei paesi dell'Unione Europea, e vediamo quanto durerà tutto questo. Poi c'è un fatto comune che riguarda l'Italia e la Spagna, che sembrano procedere di pari passo, sono gli unici paesi europei su molti temi. Intanto Italia e Spagna sono gli unici paesi in cui opposizione fa sentire la sua voce in maniera più energica, più limpida. Energica. Sì, perché mentre in Gran Bretagna il Labour sta zitto e di fatto sta sostenendo le decisioni del governo di Boris Johnson, almeno per ora, mentre in Francia Marine Le Pen non si sente, e dunque anche qui opposizione silente rispetto alle scelte del governo, che secondo i francesi sta facendo bene per il 45%, mentre il 51% pensa che non stia facendo bene l'esecutivo di Edouard Philippe e in generale il governo. Non sono contenti i francesi di come è stata gestita finora, però vedremo se cambieranno idea strada facendo. Ebbene, in Spagna e in Italia le opposizioni questi sono gli unici due paesi in cui le opposizioni si fanno sentire. Sono sul piede di guerra, e anche sì, gli Stati Uniti. Due paesi, Simone, in cui le scuole non riaprono. Le scuole riaprono in tutta Europa, dalla Francia alla Germania, dalla Danimarca alla Norvegia, in Italia e in Spagna parte, no. In parte, ne parleremo più avanti, ma ne parleremo magari anche, un accenno lo faremo, Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute, che è in linea con noi. Sileri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. A che punto siamo, Sileri? In termini di numeri? In termini di quello che ci dobbiamo aspettare dal lato delle riaperture. Allora, in termini di numeri, ripeto, quello che ho sempre detto ormai da molte settimane, i numeri secondo me vanno presi non giorno per giorno, ma va valutato il trend. Abbiamo una pressione molto molto minore sulle nostre terapie intensive e sull'ospedale, che significa che al di là di quei contagi in più che vengono trovati magari giorno dopo giorno, anche con dei numeri un po' altalenanti, questo è dovuto al fatto che vengono fatti più tamponi. Non ci dimentichiamo che nelle settimane scorse vi erano diverse persone, diverse famiglie che erano a casa magari con dei sintomi più o meno gravi, purtroppo qualcuno più grave, che erano in attesa di un tampone che è stato fatto, che ha scovato i positivi e ha scovato anche i familiari vicino che erano positivi. Questa è una seconda, non la chiamerei ondata, ma insomma quelli che osserviamo oggi sono dei nuclei familiari, quindi una catena molto ristretta di persone che si infettano, e purtroppo sappiamo oggi il problema dell'RSA, dove invece in diversi casi in Italia sono stati scovati non solo operatori ma anche purtroppo residenti infetti. Quindi il trend è sicuramente in calo. Dobbiamo aspettarci però un calo anche delle morti, che purtroppo sono ancora intorno alle 600 al giorno, chiaramente molto meno di quelle che osservavamo 2 settimane fa, 10 giorni fa, ma insomma sempre tanti. È come se un piccolo paesino di 600 persone ogni giorno scomparisse completamente dall'Italia. Quindi è chiaro che è atteso anche un calo delle morti. A questo punto si sta preparando quella che viene chiamata fase 2, che si chiama fase 2 per semplicità, ma io la chiamerei una fase di convivenza con il virus, perché il virus non è battuto, cioè anche è chiaro che per battere il virus dovremmo stare tutti quanti a casa, non dovrebbe esserci più possibilità di passaggio dal virus da una persona all'altra e come sapete questo è impossibile, quindi si tratterà di utilizzare dei meccanismi fisici, la distanza sociale, la mascherina laddove la distanza sociale non è possibile o se si sta chiuso, procedure di disinfezione e quant'altro e piano piano tornare a una progressiva normalità che tuttavia sarà una normalità distante, non sarà una normalità come prima dell'arrivo pre-COVID, del virus, pre-COVID. In attesa di avere questo vaccino che al di là degli annunci che vengono fatti, insomma molti mesi ce ne vorranno. Maria, prego. Sottosegretario Sileri, senta, da Vice più ministro. Parti si dice... Vice ministro, sono sempre portata all'understatement, ma credo, no, che, sì, credo che il vice ministro non me ne vorrà no, per questa breve undervaluation. Allora, Sileri, io mi emoziono ancora quando mi chiamano dottore. Quindi, medico. Vabbè, in Italia dottore non si risparmia a nessuno, siamo dottori per sempre. Quello che incuriosisce è che da più parti si dice tutto il mondo è stato impreparato, in Europa alcuni di più, altri di meno sotto il profilo sanitario, la Germania per esempio aveva previsto già da tempo un piano e insomma aveva anche molte terapie intensive in più eccetera, quindi si parla della necessità di tornare a una maggiore attenzione per quanto riguarda la spesa sanitaria e soprattutto indirizzarla bene. Dall'altro c'è l'ipotesi che il MES, il Fondo Europeo che dovrebbe consegnare ai paesi che lo richiedono i fondi necessari per la sanità, non tutti i partiti sono d'accordo nell'accettarlo, quantomeno per quanto riguarda l'Italia. Allora le chiedo, lei questi soldi, se non fossero condizionati e ci fosse sicurezza che non ci siano condizioni, li prenderebbe e che cosa ci farebbe per la sanità italiana? Li prenderei non nella forma del MES, o meglio, li prenderei in una forma non condizionata e ovviamente andrei a colmare ciò che è stato sottofinanziato in questi ultimi 10 anni, perché io dico sempre questo, oggi siamo a metà aprile, ma lei immagini se questa discussione che stiamo facendo ora al telefono l'avessimo fatta, non so, il 15 dicembre del 2019. Di cosa avremmo parlato? Avremmo parlato delle liste d'attesa, avremmo parlato della disomogeneità del Servizio Sanitario Nazionale, delle cure oncologiche, delle terapie domiciliari, avremmo fatto un elenco di cose che avremmo voluto migliori e avremmo avuto più personale, più stipendi per i nostri sanitari, combattere il precariato, cioè potrei farne un elenco che è lo stesso che avremmo fatto 4 mesi fa, ecco, quindi è questo che dobbiamo fare con questi soldi, cioè rinforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. E servono diversi miliardi, ma voglio dire, se lei mi chiede quanto è stato tagliato o sottofinanziato negli ultimi 10 anni, le dico sicuramente tra i 30 e i 40 miliardi. È chiaro che il sottofinanziamento che vi è stato ha consentito in alcune realtà di usare meglio i soldi, perché i soldi ci sono anche, attenzione, non è che i soldi non ci sono, ma sono stati spesso in alcune aree veramente usati male. E quindi usare meglio i soldi, cambiare quelli che sono i processi, la governance in alcune cose e quindi dare linfa al sistema. E poi cambierei anche altre cose, ad esempio ora sta sollevando il problema delle RSA. Bene, su quello poi volevamo anche portarla, tra l'altro Sileri, sulla questione delle RSA. Prego, prego. Quindi forse anche i modelli di trattamento dei nostri pazienti devono essere cambiati. Penso ad esempio al budget di salute, penso alla definizione di salute del vero senso della parola, cioè se vieni dal ministero vi è una targa all'entrata che ti dice come lo stato di la salute è quello stato completo di benessere fisico, psichico, sociale e quindi non è solo l'assenza di malattia. E allora forse qui dobbiamo non solo aiutare gli ospedali, migliorare quella che è la cura primaria all'interno dell'ospedale, ma raggiungere il territorio, che è stato probabilmente un po' l'anello mancante che ha determinato una certa impreparazione, non solamente nostra, perché poi avete detto voi stesso cosa è accaduto in Europa nel combattere il virus. E poi forse cercherei non di centralizzare tutta la sanità, sì. Questo forse è un argomento che lascerei al Parlamento, perché oggi si ridiscute del titolo quinto della Costituzione, ma serve chiaramente un'azione del Parlamento su questo. Però probabilmente partirei dalla sanità pubblica, cioè proprio la definizione di sanità pubblica e prevenzione di sanità pubblica la riporterei al governo centrale. Tutto il resto può essere gestito dalle regioni, senza ombra di dubbio, poi questo lo vedremo, ripeto, il Parlamento è sovrano su questo, ma la sanità pubblica, la prevenzione, che poi porta al grosso risparmio, al migliore utilizzo delle nostre risorse, la riporterei al governo centrale. Tra un attimo la riportiamo sulle RSA, perché io vorrei capire esattamente che cosa intende, se intende per esempio strutture più piccole, magari un po' più sparse sul territorio, se ha un'idea di questo genere, se ho capito bene. Ma prima una domanda sulla ripartenza. Quella della Lombardia di ieri è stata una fuga in avanti eccessiva, Sileri, secondo lei trova dell'incoerenza in una regione che prima decide di chiudere le librerie a differenza delle altre e poi propone la ripartenza il 4 maggio? Che cosa ci dice? Allora, io le dico la verità, non l'ho capita e non so se è stato strumentalizzato ciò che è stato detto, ma fondamentalmente è quello a cui stiamo già lavorando. Cioè, quando si parla di fase 2, quando si parla di transizione, quando si parla di comitato tecnico scientifico e di commissari che si stanno lavorando e stiamo lavorando tutti per garantire una progressiva riapertura, stiamo parlando di questo. Ho letto delle 4D, ma voglio dire, quando diciamo ripartiremo con l'utilizzo delle mascherine e con quindi i dispositivi, ripartiremo con maggior tamponi e ripartiremo facendo degli screening attraverso i test serologici, con i medici di medicina preventiva e del lavoro. Cioè, questa ripartenza è quella auspicata da tutti e alla quale noi stiamo già lavorando. Quindi non so se definirla una fuga in avanti o semplicemente aver detto quello che però il governo già sta programmando, e lo sta programmando non per una regione, la Lombardia, ma lo sta programmando da Trento a Palermo, ecco. Le posso chiedere una cosa che riguarda la comunicazione ai tempi del Covid-19. In altri paesi ogni giorno parla un solo esponente. In Francia, per esempio, parla il direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, che è Salomon, e parla solo lui. Non ci sono le conferenze stampa del sindaco di Lyon, del deputato dell'Alsazia. È chiaro, noi abbiamo le regioni, lo Stato centrale invece appunto in Francia è centralizzato, ma tutta questa cacofonia di voci è proprio necessaria? Ecco, qui mi fa dimettere oggi per la mia risposta, secondo me no, francamente, ma io personalmente già alcune settimane fa dissi, secondo me comunicare tutti i giorni questo bollettino è utile sicuramente all'inizio, però forse io lo farei diversamente, le dico la verità. Darei il trend, cioè, però questo poi dipende da ognuno di noi. Forse io purtroppo ho un retaggio medico e quindi magari un modo diverso di parlare con i pazienti, perché qui fondamentalmente noi abbiamo 60 milioni di potenziali pazienti davanti, cioè gli italiani, quindi forse anche la comunicazione potrebbe essere cambiata, anche perché, ripeto, qui andremo avanti così per diversi mesi e quindi non così con questi numeri, per carità di Dio, però ci sarà sempre purtroppo qualcuno che si infetta e l'impegno sanitario nazionale. Poi c'è stata sicuramente una frammentazione, probabilmente un dialogo maggiore di tutti sarebbe stato necessario e credo che sia necessario. Io ho sempre evitato polemiche, vedi, anche adesso quando mi ha chiesto della Lombardia, evito le polemiche, perché le polemiche in tempo di guerra non servono a nulla, e soprattutto i conti, e questo lo dico ormai da più di un mese, a dire il vero, forse due mesi si fanno alla fine. Quindi se le chiedo se secondo lei la sanità lombarda andrebbe commissariata, non mi risponderà? No, le rispondo, le dico, cioè io penso proprio di no. Io in questo momento non guardi, sa quante richieste di commissariamento mi arrivano, delle lettere. Io nel mio ufficio lavoro circa fra le 3 e le 5 mila mail a settimana. cerchiamo di rispondere a tutti ovviamente, però non, io sono sempre stato contro i commissariamenti, quindi potrei dirvi di sì, ma no, perché per me no, ma non, non per la Lombardia. Prende le mie dichiarazioni di in assoluto fa, dice lei. Sì, secondo me il commissariamento deve essere qualcosa di chirurgico, il commissariamento non deve essere dell'intera regione. Io sono anche contrario ai commissariamenti che ci sono stati ora, se vi ricordate, no? La Campania, la Calabria. Io penso che il commissariamento debba essere chirurgico, cioè c'è un qualcosa che non funziona, un ospedale, in quell'ospedale la singola ASL, il singolo ospedale, via dicendo. O la singola area che non funziona dentro quell'ospedale, lì devi andare ad aiutarla, ma prima del commissariamento gli mandi diciamo qualcuno in supporto, perché il commissariamento è, per me significa prendere per mano qualcuno che non riesce a fare un percorso come dovrebbe essere fatto e accompagnarlo. Se poi non ci riesce, chiaramente commissari in maniera forte, però i commissariamenti secondo me hanno fallito nel loro essere, perché hanno depresso quelle cose che magari funzionavano bene a favore a favore invece di quelle che andavano male, livellando e tagliando, purtroppo, perché c'era un vincolo di bilancio, che hanno funzionato per ripristinare il bilancio, ma mi chiedo, hanno funzionato dal punto di vista di percezione della popolazione in termini di salute? Quindi no, il commissariamento non, a mio avviso non è la soluzione. Vice Ministro Sileri, mi fa capire i nuovi casi di contagio che si sono registrati ieri rispetto al giorno prima? Questa è l'altra cosa. I dati sono di nuovi positivi, 1127, ma mi corregga se la cifra nel frattempo è cambiata. Chi sono? Persone che lavorano, infermieri, medici? Allora, per quanto riguarda il chi sono, chiaramente dobbiamo aspettare i dati, quindi il flusso di dati, e spero che l'Istituto Superiore di Sanità riesca, diciamo, a comunicarli in maniera aperta, trasparente a tutti, così tutti possono capire, perché vede, quando arrivano i dati così, sebbene comunicati in maniera trasparente, pongono dei quesiti, come quello che lei mi ha fatto ora. Io vorrei capire innanzitutto se quei tamponi che vengono detti oggi, no? Dice fatti 46.000 tamponi in più, vorrei capire quando sono stati fatti quei tamponi, perché se quel tampone risale al 3 di aprile, non è un'infezione o un positivo del 16 di aprile, è un positivo del 3 di aprile, comunicato il 16 di aprile. Quindi aspetterei il flusso, voi immaginate 21 sistemi sanitari sul territorio, quindi chi fa il tampone prima, chi dopo, chi lo comunica, la positività, qualcuno magari che è sotto pressione lo comunica dopo 24 ore, qualcun altro dopo magari 5 giorni, che purtroppo è possibile, no? Perché il sistema è davvero sotto pressione in maniera disomogenea, quindi aspetterei il flusso di dati. Però parlando con i miei colleghi medici sparsi sul territorio, tutti quanti, chi più chi meno, mi dice: guarda, quelli che osserviamo oggi, le terapie intensive sono ovviamente meno sotto pressione, stiamo dimettendo i malati delle terapie intensive, quelli che oggi osserviamo sono soggetti più giovani, quindi sono delle persone fra i 35 e i 55-60 anni, quindi diciamo una forchetta molto più ampia, ma verso soggetti più giovani, quindi si tratta di persone che stanno, che stavano verosimilmente a casa con qualcuno infetto, che non sapeva di essere infetto e che li ha infettati, o che magari erano quei famosi asintomatici che sono magari, non so, il padre è rimasto asintomatico, i figli invece hanno sviluppato la malattia, hanno fatto il tampone e sono risultati positivi. Non credo invece che siano prevalentemente lavoratori oppure persone che non rispettano le regole, perché avete visto anche i dati, cioè dire l'Italia non rispetta le regole non è proprio così, perché il 95% degli italiani, anzi, ha visto domenica, quando è stato Pasqua o Pasquetta, quel video fatto sul raccordo anulare o sulla pontina della gente che andava al mare, era semplicemente un posto di blocco ben fatto dalle forze dell'ordine che controllava ogni singola persona, che erano poi i pendolari, i pendolari, peraltro era sabato o venerdì, i pendolari che tornavano siamo stati abbastanza rispettosi delle regole. Qual è quella legge che viene rispettata al 95% in Italia? Buona domanda. Sileri, a chiudere, dato che insomma la questione delle RSA, in questi giorni noi stiamo registrando, abbiamo parlato del caso Lombardo, tanto si è parlato, ma in realtà il problema è diffuso in tutta Italia. Contagi, molti morti che tra l'altro non sono registrati come Covid-19, perché a molti non è stato fatto il tampone, e però noi lo sappiamo che in realtà lo sono, perché i sintomi sono quelli. Lei diceva budget di salute, ma che cosa vuol dire? Quindi strutture più piccole, che cosa immaginate per il futuro? Innanzitutto, se ho qualche secondo in più le dico, RSA è un problema del Covid o si parlava di RSA sui giornali anche prima del Covid? Lancio questa provocazione, perché problemi di RSA ci sono sempre stati, attenzione, cioè, i controlli vi erano anche prima, spesso leggevamo sui giornali, quindi ci sono delle RSA che lavorano molto bene ed altre che purtroppo, indipendentemente dal Covid, non hanno lavorato bene. Il budget di salute consentirebbe di utilizzare un budget a livello locale, quindi anche ovviamente con strutture molto più piccole, quindi una distribuzione qualitativa e quantitativa delle risorse che vedano la persona al centro, cioè venga una maniera per ritagliare sulle esigenze della persona che ha una disabilità, che può essere di natura psichica o fisica, a livello locale, e quindi ridà alla persona la centralità attraverso un progetto individuale stabilito con l'ente regolatorio, in questo caso è la ASL, ma non è una cosa nuova, attenzione, è qualcosa che utilizzato dagli anni 90 anche in altre nazioni. In Italia almeno 5 regioni erano già partiti con progetti pilota, ad esempio la Regione Venezia Giulia, ad esempio la Campania, quindi provato ad applicarlo con dei progetti pilota. Ecco, forse è il momento di far sì che questi progetti da pilota diventino realtà continuative, che siano diffuse su tutto il territorio nazionale. Grazie Pierpaolo Sileri, la dobbiamo salutare, Vice Ministro della Salute, una pausa e poi parliamo di scuola, cara Maria, finalmente, tra poco. Dunque, con la Francia che riapre materne elementari, la Germania che si prepara a riaprire le scuole, la Danimarca che lo farà e Spagna e Italia che, come già dicevamo prima, invece decidono di non farlo e di rinviare tutto a settembre. A settembre però come? A parte che già si può discutere di questo, no? E poi a settembre come? È con noi Andrea Gavosto, che è il presidente della Fondazione Agnelli. Buongiorno Gavosto, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Tra poco ci raggiungerà, dico solo una cosa, tra poco ci raggiungerà anche Giuseppe De Cristoforo, che è sottosegretario al Ministero dell'Istruzione. Intanto iniziamo con Gavosto, appunto. Maria, prego. Buongiorno, a parte il dibattito che mi pare molto vivace in altri paesi, è in prima pagina oggi sul Financial Times l'accusa che lancia per esempio David Miliband, che dice: il coronavirus potrà essere un disastro che sarà passato alle prossime generazioni, col 90% di alunni in tutto il mondo che restano fuori scuola. E questa è una denuncia che riguarda tutto il mondo. Però veniamo ai fatti di casa nostra. Si dice: le lezioni non possono essere prolungate, cioè non si può tornare in classe, per esempio, a giugno, quando magari ci saranno maggiori garanzie sanitarie per i docenti e per gli allievi, perché si spera che il Covid-19 abbia interrotto o sospeso la sua corsa. Non si può, perché l'anno scolastico da noi finisce i primi di giugno, in Francia finisce a luglio. Oppure si dice: non si può perché da noi il corpo docente è mediamente più anziano che in altri paesi. O ancora: non si può prolungare l'anno scolastico perché da noi fa caldo. Vabbè. Ora, mi chiedo, tutto questo no, opposto al fatto che in altri paesi invece si risponda con un sì e si riaprano gradualmente le scuole, non nasconde semplicemente la difficoltà di far comprendere a tutto il mondo della scuola quanto sia importante per i ragazzi interloquire fisicamente anche con gli insegnanti, perché il, come dire, l'insegnamento a distanza è pur sempre un insegnamento parziale, non è la stessa cosa. Quindi la mia domanda è, Gavosto, facciamo capire alle mamme e ai papà italiani che vedono che i loro figli non torneranno a scuola per mesi, perché siamo diversi dai francesi che hanno a volte 35 alunni in classe o i tedeschi, lasciamo perdere i paesi del nord Europa, che è inutile fare sempre confronti con quei paesi, ma con due paesi vicini a noi. Sono ovviamente, nessuno ha la ricetta, diciamolo subito, è una situazione complicata, perché dal punto di vista medico, io non sono medico, però ovviamente è chiaro che la scuola, così come l'università, sono dei veicoli potenziali di diffusione del virus. Bambini, ragazzi chiaramente tendono ad assembrarsi, non mantengono le distanze sociali, eccetera, eccetera. Pensate anche all'uso dei mezzi pubblici per andare a scuola, e quindi c'è il rischio che una volta riaperta la scuola si abbia una seconda ondata, un nuovo focolaio del virus, perché i ragazzi magari asintomatici, come ascoltavamo prima, però possono portare il virus a casa, dai genitori, dai nonni, dagli insegnanti. Quindi è chiaro che una decisione, è comprensibile che la decisione vada fatta con molta prudenza. Negli altri paesi anche lì si è molto prudenti, in realtà Danimarca e Germania, che sono i due più avanti, finora Macron ha solo fatto l'annuncio ma non si è ancora capito bene come funzionerà. Germania e Danimarca, dicevo, hanno comunque tutta una serie di misure molto potenziali, distanziamento di 2 metri da un alunno all'altro, utilizzo anche degli spazi esterni, quindi cortili, giardini, eccetera, per fare lezioni. Anche noi abbiamo i cortili e i giardini? Sì, abbiamo i cortili e i giardini, in realtà si vede l'anagrafe dell'edilizia scolastica dalla legge del 75, la maggior parte delle scuole dovrebbe avere un rapporto, diciamo, di un terzo l'edificio scolastico, la cosiddetta impronta a terra, e 2/3 invece sono giardini e cortili. Quindi lo spazio ci sarebbe. Va anche detto che purtroppo, una denuncia di cittadinanza attiva, il 30% di questi cortili sono usati come parcheggio, diciamo, per il personale della scuola, quindi quello va meno bene, diciamo, da un certo punto di vista. Però in teoria anche noi potremmo usare gli spazi esterni, questo darebbe garanzia, perché possiamo pensare ai doppi turni, eccetera. D'altro canto, lei ha assolutamente ragione, e Miliband ha ragione, perdere scuola, noi sappiamo, diciamo, da studi internazionali, crea una lacuna, ma non crea solo una lacuna, perché io non ho fatto quel pezzo di programma. Il fatto di non aver fatto quel pezzo di programma mi renderà più difficile studiare negli anni successivi, quindi è una generazione che rischia di perdere qualcosa di importante, nel senso avrà sempre più difficoltà negli studi e anche nel mercato. Rischia di perdere lavoro. Un pezzo più lungo. Allora io la fermo, Gavosto. Nel frattempo ci è raggiunto Giuseppe De Cristoforo, il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione. Abbiamo una brevissima pausa e poi veniamo da lei, De Cristoforo. Mattino. Allora dunque, con Giuseppe De Cristoforo, sottosegretario, buongiorno innanzitutto. La domanda è molto secca, insomma, abbiamo parlato di alcuni paesi che stanno pensando alla ripartenza della scuola, perché in Italia non ci si può pensare, quantomeno per esempio per materne ed elementari. No, in realtà non è vero che non si sta pensando alla ripartenza, semplicemente si immagina più probabile la ripartenza a settembre, naturalmente laddove siano garantiti quegli elementi di sicurezza che dal nostro punto di vista sono assolutamente imprescindibili. Noi abbiamo fatto questa scelta, ma non da oggi, abbiamo fatto una scelta che non riguarda solo la scuola, che riguarda tutto il nostro sistema nazionale, ed è quella sostanzialmente di avere grande attenzione, in particolare nei confronti di quelle che sono le indicazioni che vengono dal Comitato Tecnico Scientifico, sapendo che poi naturalmente l'ultima parola ovviamente spetta al governo, però abbiamo detto dall'inizio che dal nostro punto di vista, siccome l'elemento della sicurezza è assolutamente decisivo, è assolutamente centrale, le indicazioni di quel comitato le avremmo ascoltate con grande attenzione. Io spero, naturalmente, sono assolutamente convinto che si debba provare in tutti i modi, quando arriverà l'anno scolastico a settembre, a tornare in classe, perché naturalmente capisco bene tutti i limiti che ci sono stati in queste settimane della didattica a distanza, che pure penso sia servita, perché naturalmente ha colmato almeno in parte un buco, ha tenuto perlomeno un filo, se possiamo dire così, e in una situazione come questa comunque non è poco. Ora, noi non dobbiamo dimenticare che in questo momento in cui parliamo ci sono nel mondo 1,5 miliardi di studenti a casa, cioè parliamo di questo, parliamo di una cosa che non ha precedenti, di una pandemia, di una situazione molto diversa anche nei singoli paesi. Qualcuno sta pensando di riaprire, potrei farle l'elenco di quelli che invece non stanno pensando di riaprire, che sono la netta maggioranza. Quindi, insomma, c'è una situazione obiettivamente di grande complessità e noi cerchiamo di ispirarci a questi due principi che riteniamo entrambi importanti. Da una parte capire per l'appunto come si può determinare un rientro, ma dall'altra parte sapere che questo rientro lo possiamo immaginare solo in totali condizioni di sicurezza per gli studenti, per i docenti e per il personale ATA. Sottosegretario, io capisco ovviamente il punto, ci mancherebbe, la sicurezza e le garanzie sanitarie sono fondamentali. Mi rendo anche conto che quello che viene lanciato come campanello d'allarme, citavo prima l'articolo di David Miliband oggi sul Financial Times, cioè il coronavirus potrebbe essere un disastro passato alle future generazioni. Lei dice appunto nel mondo ci sono un sacco di paesi che ancora non riaprono, ebbene il 90% degli studenti sta perdendo del tempo che sarà difficile recuperare. Allora, in Italia ci sono 5 milioni di italiani che non sono tutelati dai provvedimenti del governo e quindi ci sono centinaia di migliaia di famiglie che non solo non hanno la possibilità di far seguire bene i figli magari con delle ripetizioni private adesso che ci sono soltanto le lezioni online, ma spesso se hanno un computer se lo devono passare tra fratelli, se ce l'hanno, oppure il ragazzo o la ragazza fa i compiti sul cellulare. E lei non pensa che questo... Ecco, però lei dice non è proprio caso. Facciamolo parlare, sì. Maria, facciamolo parlare. Sì. La domanda, lei non pensa che questo gap produrrà ulteriori diseguaglianze tra studenti di serie A e studenti di serie B? Sì, penso innanzitutto che è un po' singolare che ci siamo accorti delle diseguaglianze nel mondo della scuola adesso, perché le diseguaglianze c'erano già prima, erano molto serie. Io per esempio faccio parte di quelli che da molti anni a questa parte tendi a sottolineare, diciamo così, le grosse diseguaglianze che purtroppo esistono nel sistema scolastico e che in qualche modo la didattica a distanza ha contribuito a rendere più visibile, ma non è che prima non ci fossero. Le scuole di serie A e le scuole di serie B purtroppo ce l'avevamo anche prima. Ce l'avevamo anche prima, per esempio, il fatto che in Italia la stragrande maggioranza di quelli che fanno il liceo classico, tanto per dirne una, hanno alle loro spalle genitori diplomati. Vado a vedere quanti sono nei licei classici quelli che vengono da famiglie con genitori diplomati e quanti sono quelli che invece al professionale. Ok, veniamo alla domanda per cortesia. No, però questo glielo dico perché, come dire, non bisogna mai dimenticare il contesto decennale, ventennale, trentennale nel quale noi ci muoviamo, sennò diventa una domanda un po' peregrina. Per di più le aggiungo che naturalmente non è che il governo non si è accorto di questo elemento di diseguaglianza, certo che se ne è accorto, ha anche previsto uno stanziamento significativo nel decreto Cura Italia, 70 milioni di euro che sono stati mandati alle scuole esattamente per acquistare materiale tecnologico, cioè i tablet che le scuole hanno effettivamente acquistato e stanno distribuendo, hanno distribuito ormai in buona parte in comodato d'uso a quei ragazzi che vengono da contesti più disagiati e che quindi, o come dice lei, il computer non ce l'hanno, magari hanno più fratelli nella stessa famiglia e quindi con un solo tablet se lo devono passare. Naturalmente siamo molto consapevoli che questo problema esista, abbiamo per l'appunto provato ad intervenire con questo stanziamento, naturalmente stiamo cercando di fare nelle condizioni date tutto il possibile. Io le posso dire che ci sono paesi, proprio perché dobbiamo parlare anche degli altri, che ci sono paesi del mondo in cui non si è provato nemmeno a fare questo e si è detto molto, diciamo così, laicamente, quando le scuole sono state chiuse alcune settimane fa, si è detto agli studenti, cari studenti, purtroppo non siamo in condizione di andare avanti con le lezioni, ognuno si arrangi nella maniera migliore possibile, ci vediamo fra alcune settimane. Mi pare di poter dire che il governo italiano non ha fatto questo. Invece ha fatto un monitoraggio, questo l'abbiamo fatto noi come ministero. Sottosegretario, dipende da quali paesi noi usiamo come confronto. Io penso che l'Italia si debba confrontare con i paesi europei. Quelli europei, assolutamente sì, quelli europei. Le posso dire che in diversi paesi europei la didattica a distanza me ne cita uno? Provata. La Francia, per esempio, che molto, diciamo così, apertamente ha riconosciuto questo elemento di difficoltà, e appunto stiamo parlando di un grande paese, non stiamo certo parlando di un paese, diciamo così, lontano da noi, ma perché naturalmente la condizione è difficile per tutti, perché o facciamo un'operazione anche di realismo, abbiamo a che fare con una situazione del tutto inedita, del tutto inaspettata, che incide su un sistema scolastico come il nostro, che da una parte sicuramente è un grande pilastro democratico, ma dall'altra purtroppo questi elementi di diseguaglianza che dite voi, che sono veri, ce li aveva già tutti in corpo purtroppo, e quindi naturalmente nel momento in cui siamo andati a fare la didattica a distanza, inevitabilmente... Questa cosa si è acuita naturalmente, insomma le famiglie... Però diciamo siamo consapevoli di questa situazione, non è che non ce ne siamo accorti. Vorrei tornare a coinvolgere Gavosto, la Fondazione Agnelli, per una questione che ha a che fare con il quando si riprenderà. Come si riprenderà? Prima accennavamo a una questione, solo accennavamo a una questione che ha a che fare con gli edifici scolastici, perché la ripresa sarà una ripresa con delle caratteristiche diverse, lo sappiamo, cambierà presumibilmente la nostra vita, come vivremo, no, i locali nei quali ci troviamo tutti i giorni, e tra questi naturalmente ci sono le aule scolastiche, ci sono gli ingressi delle scuole, insomma ci sono mille elementi che sono problematici, specie in una situazione nella quale la classe docente italiana, come dire, abbastanza avanzata di età e quindi da questo punto di vista un po' più a rischio degli altri. Gavosto, che dice? Sì, esattamente. Se pensiamo, diciamo, a quello che è una giornata tipica di scuola, quindi i ragazzi prendono i mezzi pubblici, magari vengono accompagnati a scuola, c'è l'assembramento davanti al portone, c'è poi appunto le aule, le mense, i corridoi, eccetera. È chiaro che se vogliamo mantenere il distanziamento sociale bisogna ripensare anche proprio l'organizzazione della scuola nelle nostre aule. Noi sappiamo che per mantenere un metro di distanza fra uno studente e l'altro avremo bisogno di aule di almeno 60 metri quadri. In realtà le nostre aule non superano al massimo i 50 metri quadri, quindi diciamo già questo è un problema. Questo cosa significa? Significa che inevitabilmente dovremmo organizzare, la scuola dovrà organizzarsi per turni. Cosa vuol dire? Turni si potranno fare ovviamente lezione con meno studenti, magari diciamo la classe un pezzo la mattina, un pezzo il pomeriggio, nelle superiori dove è ovviamente più semplice e i ragazzi possono essere lasciati a casa, magari qualche pezzo in didattica a distanza, qualche pezzo in presenza, diciamo prima l'utilizzo come la Danimarca degli spazi esterni, gli ingressi scaglionati, magari la prima entra alle 8, la seconda entra alle 9 per evitare l'assembramento. Sarà chiaramente, dovremo cambiare l'organizzazione della scuola, questo mi sembra. Gavosto, ma questo è stato già fatto nell'Italia degli anni 60, si andava a scuola per doppi turni, cioè non stiamo scoprendo qualcosa di nuovo. L'Italia degli anni 60 aveva talmente tanti bambini alle elementari che si facevano i doppi turni. Allora abbiamo Maria, siamo praticamente in chiusura. De Cristofaro, in 10 secondi, sono ipotizzabili i doppi turni alla ripresa della scuola? Ma questo lo vedremo, abbiamo istituito una task force, abbiamo messo anche voi, anche voi, anche voi. Ma guardate, è una cosa seria, quindi non è che... Lo so, è che si stanno moltiplicando, Stiamo mettendo su un gruppo di esperti che naturalmente ci farà una serie di simulazioni, ci farà una serie di proposte, e io non escludo niente, nel senso che naturalmente penso che la priorità debba essere cercare di tornare a scuola per le cose che dicevamo prima e perché ritengo anch'io che obiettivamente la didattica a distanza abbia dei limiti e perché penso che la socialità è un elemento essenziale della scuola nostra, ovviamente, per cui bisognerà cercare di tornare in classe. Naturalmente siccome bisogna farlo in sicurezza bisogna tenere due insieme questi due principi. Torneremo a parlarne, dando atto agli insegnanti. Grazie Gavosto, grazie De Cristofaro. Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. Ciao a tutti, ciao.